Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buongiorno a tutti e ben ritrovati a Salva Danaio. Ci ritroviamo insieme dopo la pausa di Pasqua e ci ritroviamo insieme per ritornare a parlare dei temi a noi più cari, ma in qualche modo sono quelli che per la verità adesso ci preoccupano un po' di più, perché questa mattina torniamo a parlare dell'IMU, dell'imposta municipale unica che è stata al centro dell'attenzione, lo ricorderete bene, dopo la sua introduzione con la manovra Salva Italia, che l'ha resa tristemente famosa come la nuova ICI e che è tornata ad essere molto discussa anche negli ultimi giorni. Mancano infatti pochi mesi alla scadenza per il pagamento della prima porzione dell'imposta. Lo ricordiamo, l'acconto va versato entro il 18 giugno, ma alcuni aspetti fino a poco più di una settimana fa non erano chiari, il che ha fatto partire un allarme lanciato soprattutto dai CAF, dai centri di assistenza fiscale, un punto di riferimento importante per tutti quegli italiani, per tutti quei contribuenti che chi con più, chi con meno dimestichezza si stanno confrontando con le tante novità in arrivo sul fronte fiscale. Le preoccupazioni sollevate dai CAF riguardavano in particolare le modifiche che la manovra consente ai comuni, che possono alzare o abbassare le aliquote previste per il pagamento fino ad un massimo del 3 per mille. In tanti si sono chiesti, ed è il motivo per cui i CAF in un primo momento avevano chiesto di prorogare la scadenza dell'acconto, quanto pagare in questa prima tranche, visto che i comuni, nella stragrande maggioranza dei casi, non hanno ancora comunicato le loro decisioni, né hanno l'obbligo di farlo, perché per loro la scadenza in questo senso è a fine settembre. Le nebbie si sono schiarite a metà della scorsa settimana, quando il Senato ha confermato che i pagamenti avverranno attenendosi alle aliquote standard, quelle fissate dal governo, insomma, che potremmo definire anche minime, visto che purtroppo, considerato in che acque navigano i sindaci italiani, difficilmente le correzioni sarebbero state a ribasso e saranno a ribasso. Queste incognite, tante incognite però restano ancora, vengono rimandate solo di qualche mese. Noi questa mattina in ogni caso abbiamo voluto rifare un punto della situazione rispondendo alle vostre domande all'800240024, a cui cercheremo di dare una risposta con intanto il nostro esperto di queste tematiche, il dottor Luigi Rovecchio, dottore commercialista, esperto per le questioni fiscali per il Sole 24 Ore. Buongiorno, bentornato. Buongiorno, anche ben ritrovato anche Valeriano Canepari, presidente nazionale del CAF CISLE, ma anche della Consulta Nazionale dei CAF, ed era stato proprio Canepari a sollevare questo polverone, no, nei giorni scorsi, naturalmente in termini positivi, Canepari, perché poi c'è stata una sorta di rimedio poi che è stato trovato per chiarire le idee ai contribuenti, poi ne parleremo. Canepari, buongiorno. Buongiorno a tutti voi. E allora, io ho già ricordato agli ascoltatori le modalità con cui possono interagire con noi, chiamandoci all'800240024 oppure scrivendoci al 349-238-6666 all'indirizzo salvadanaio@radio24.it, oppure potete andare anche a curiosare sul nostro profilo Facebook, che è all'indirizzo salvadanaio-radio24. La borsa va male stamattina, Milano sta perdendo il 2,41%, davvero è un post Pasqua amaro per i listini del vecchio continente. Anche Parigi perde l'1,20%, Francoforte un po' meglio, meno 0,87%, anche Londra va meglio, molto meglio delle altre piazze, meno 0,80%, per Milano vendite fitte, per la verità non prevalentemente sul comparto bancario, perché stamattina STM che scende molto, meno 5 punti, ma anche le utilities A2A meno 4,40, e poi il primo titolo bancario è Monte dei Paschi che perde comunque 4 punti, Fiat Industrial meno 4, Buzzi Unicem meno 4, qua davvero il quadro è piuttosto pesante. Per i titoli bancari abbiamo un meno 3,72% per Mediolanum, meno 3,64% per Intesa, Mediaset meno 3,51%, Credit meno 3, si salvano solamente Azimut che guadagna lo 0,46%, il gruppo ha avuto una buona raccolta per quello che riguarda i fondi che gestisce in marzo, e poi Campari più 0,19%, abbiamo terminato i titoli positivi. Cosa succede stamattina? Che il mercato affronta il nuovo forte allargamento dello spread, del differenziale di rendimento fra titoli italiani e tedeschi. Stamattina siamo di nuovo vicini ai 400 punti base, siamo arrivati a 388, livelli che non si vedevano da metà febbraio, e tra l'altro un mese dopo erano stati toccati anche i livelli minimi di mesi, 19 marzo 278 punti base. Il bonus spagnolo con il Bund tedesco ha una differenza sempre di 400 punti base, quindi è sui paesi periferici che si riconcentra l'attenzione negativa degli investitori, penalizzando quelli che sono in maggior difficoltà. Anche il dato sulla disoccupazione americana diffuso venerdì scorso non aiuta. L'economia americana crea posti di lavoro, ma ne crea meno del previsto in marzo, e questo ha rigettato un po' nelle preoccupazioni generali gli investitori di mezzo mondo. E poi ci sono anche alcune società del settore tecnologico che hanno annunciato pesantissimi tagli della forza occupazionale, toccato a Sony nelle ultime ore, ne abbiamo parlato molto nel fine settimana, a meno 10.000 posti di lavoro entro la fine dell'anno. Insomma, il quadro che non si schiarisce, quindi dopo tre mesi di acquisti sul mercato azionario, tutte queste notizie sono state prese a pretesto per incassare e portare a casa un po' di guadagno. Direi che la borsa al momento la possiamo lasciare lì, ci ritorneremo alle 13 nel nuovo giornale radio. Adesso invece andiamo all'altra scadenza, che è quella di giugno, con il versamento della prima rata dell'IMU, l'imposta municipale unica. Si avvicina la prima scadenza per il pagamento della neonata e discussa IMU, imposta municipale, che ha preso di fatto il posto dell'ICI ed è stata ripristinata anche sulla prima casa. Introducendola a dicembre con la manovra Salva Italia, il governo ha fissato le due aliquote principali, da applicare al valore imponibile dell'abitazione, al 4 per 1000 per le prime case e al 7,6 per 1000 per le seconde. È stata però contestualmente lasciata ai comuni la possibilità di alzare o abbassare l'asticella, con un margine massimo del 3 per 1000 in più o in meno rispetto a questi livelli standard. Proprio questo punto nei giorni scorsi ha messo in confusione i contribuenti, con un allarme partito soprattutto dai CAF, in vista dell'approvazione di alcuni emendamenti in materia. A preoccupare è stata soprattutto una questione di tempi. La scadenza per versare il primo acconto è fissata al 18 giugno, mentre il tempo concesso ai sindaci per fissare le aliquote arriva fino al 30 settembre. Come calcolare quindi la cifra da versare per evitare di incorrere in una sanzione? La risposta è arrivata mercoledì scorso, con un maxi emendamento votato dal Senato. A giugno si pagherà il 50% dell'imposta calcolata sulle aliquote standard, una conferma che tranquillizzerà, almeno momentaneamente, gli italiani. Sono infatti molte le incognite che restano aperte e che sono solo rimandate al pagamento della seconda parte, previsto entro il 17 dicembre. Oltre ai possibili e probabili rincari che arriveranno dai comuni, lo Stato si riserva ancora di decidere entro il 10 dicembre eventuali modifiche che potrebbero riguardare le stesse aliquote e le detrazioni attualmente previste. 800 24 0024 il numero verde per gli ascoltatori, per intervenire in diretta, per porci i quesiti appunto relativi a questa importante scadenza, questa imposta comunale municipale appunto unica, la vecchia ICI nella sostanza. Valeriano Canepari, presidente della Consulta Nazionale dei CAF, ci vuole ricordare le motivazioni per cui avevate sollevato la questione del versamento di questa prima rata, perché avevate parlato di questo rischio caos sul pagamento della prima rata dell'IMU, prima rata che è previsto, il cui versamento è previsto per il 18 giugno. Che tipo di sollecitazioni vi erano arrivate dai contribuenti che si rivolgono normalmente ai centri di assistenza fiscale? Ma la sollecitazione è stata sostanzialmente questa, che avevamo constatato che nelle dichiarazioni che abbiamo cominciato a predisporre per i modelli 730 abbiamo notato un fortissimo incremento dei pagamenti IMU che prima erano esentati dall'ICI con la prima casa. Quindi noi abbiamo visto che ad ogni dichiarazione corrispondeva quasi un pagamento IMU. Su un milione di dichiarazioni fatte fino a qualche giorno fa, l'80% doveva pagare l'IMU perché non c'era più l'esenzione della prima casa. E quindi vuol dire che su 17 milioni di contribuenti che noi assistiamo, circa 14 dovranno pagare l'IMU. Quindi un numero elevatissimo che, se non gestito in maniera organizzata, crea grandi problemi. A noi sicuramente, ma anche ai contribuenti, Ecco quindi l'allarme lanciato rispetto all'indeterminatezza che voi avete ben riassunto nel servizio circa la possibilità dei comuni di deliberare oltre i tempi, e quindi ci sembrava logico trovare una soluzione che non penalizzasse nessuno, neppure i comuni che hanno bisogno di queste risorse, e quindi il pagare l'acconto del 50% sulle aliquote base a noi sembrava una proposta saggia, di buon senso, che risolveva temporaneamente il problema. Certo, quindi volevo appunto ribadire la questione, il tema non era la mole dei contribuenti che dovevano versare l'IMU, pur tanti 14 milioni come lei ci indicava, il tema è che non si sapeva quanto dovessero versare. Quanto dovessero versare e se in caso di versamento sbagliato, perché non si conoscevano le delibere dei comuni, potevano dare eventuali sanzioni, quindi si doveva pagare con il rischio di sanzioni. Quindi il problema per il momento è risolto, nel senso che la formulazione dell'emendamento risponde alle esigenze che noi avevamo sollevate, quindi da questo punto di vista noi siamo quasi operativi, dico quasi perché mancano ancora i codici tributi dell'F24 che sappiamo sono in via di predisposizione dell'agenzia, quindi io sono fiducioso che nel giro di qualche giorno anche questo tema sia risolto e quindi che con la fine settimana si possa diventare operativi. Ecco, se non ricordo male, Canepari, leggendo anche i giornali di quei giorni, perché questa polemica si è sollevata esattamente una settimana fa, lunedì della scorsa settimana, nel weekend scorso, le proposte dei CAF erano un paio. La prima era quella di fare una norma che consentisse di pagare solo il 50% dell'IMU base, quindi senza maggiorazioni comunali e con le tariffe del 4 per 1000 per la prima casa e del 7,6 per 1000 per la seconda casa. In realtà poi il Senato ha stabilito invece il versamento dell'aliquota minima del 4 per 1000 per la prima casa, quindi non è passata la strada del 50%. Questo secondo me significa che comunque un numero molto ridotto di comuni sceglierà appunto di ridurre l'aliquota ordinaria. Già noi avevamo così la percezione che i comuni navigassero in grandi difficoltà e quindi non abbiamo riscontrato dai rapporti che abbiamo avuto con le amministrazioni locali per sentire quando avrebbero deliberato, come, in che modo, non avevamo avuto riscontri di grandi disponibilità a modificare le aliquote di base, ma anzi casomai in molti casi o nella maggioranza dei casi avevamo riscontrato un'esigenza opposta, quella di aumentarle per far fronte al gettito che serve per la gestione delle attività dei comuni, quindi questo rischio difficilmente penso e temo si correrà, perché credo che la richiesta sia quella di aumento. E poi c'è una situazione di incertezza che grava sui comuni, non hanno chiaro quello che incasseranno, come gestire anche le situazioni sociali, perché partendo dalla evidenza della difficoltà di pagare, poi il dibattito si è sviluppato anche sulla tipologia di questa tassa, sulle contraddizioni che questa norma di legge sta introducendo, e quindi ci sono tutta una serie di situazioni sociali, di situazioni tecniche che stanno emergendo, per cui io credo che bisognerà aspettare realisticamente la fase di attuazione del pagamento del primo acconto per rendersi conto di tutte le problematiche che via via stanno emergendo. Certo, quindi al momento non ci resta altro che fare un monitoraggio costante dell'evoluzione della questione e poi capire di che morte dovremo morire entro i primi 10 giorni di giugno. Eccoci ritrovati, allora quest'anno torna l'IMU, per la verità torna l'ICI con questo nuovo nome sulla prima casa dopo 4 anni di assenza, lo ha deciso, lo ricorderete, il decreto Salva Italia del dicembre scorso, che peraltro ha anche imposto un aumento della base imponibile, cioè le rendite catastali, del 60%. L'aliquota ordinaria sulla prima casa è fissata al 4 per 1000, i comuni hanno tempo ancora per qualche settimana per aumentare o diminuire questa aliquota del 2 per 1000, ma è nel frattempo che i comuni prendono questa decisione, per la verità la scadenza della prima rata deve essere effettuata entro metà giugno. Allora, per consentire appunto di fare dei versamenti con un certo ordine, si è stabilito che nella sostanza appunto le aliquote saranno quelle standard, i pagamenti appunto avverranno secondo le aliquote standard, quelle fissate appunto dal governo. Luigi Lovecchio, eccoci a lei. Allora, abbiamo capito appunto che la rata da versare entro il 18 giugno sarà secondo questa aliquota, lo dicevamo appunto, delle 4 per 1000, e io ho l'aliquota, però come faccio a calcolare quale sarà la base imponibile sulla quale applicare appunto questa percentuale? Diamo un piccolo aiuto ai contribuenti che non sanno da che pesce, come si capisce, pigliare, da che cosa cominciare, per fare già un primo calcolo, poi a prescindere da quello che entro i prossimi mesi decideranno i comuni. Sì, il calcolo dell'IMU il percorso per il calcolo dell'IMU è analogo a quello che si seguiva per calcolare l'ICI. Quello che è variato sono i moltiplicatori da applicare alle rendite. Si parte comunque dalla rendita catastale del fabbricato, è quella che si ricava da misure aggiornate del catasto, oppure dall'atto di provenienza. Dal rogito, dall'atto d'acquisto dell'abitazione, se l'abbiamo fatta magari di recente. Certo. E si rivaluta quel valore del 5%, perché è previsto che tutte le rendite debbano essere rivalutate di questo importo, e la cifra così ottenuta, quindi la rendita catastale rivalutata del 5%, deve essere poi moltiplicata per dei coefficienti, e sono questi che sono stati sensibilmente incrementati dall'IMU. Per esempio, per l'abitazione principale il coefficiente è che per gli immobili ad uso abitativo, ecco, in linea generale, il coefficiente che nell'ICI era pari a 100 adesso è diventato 160. Il risultato di questa moltiplicazione, quindi rendita catastale rivalutata del 5%, l'importo così ottenuto moltiplicato per 160, è la base imponibile dell'IMU. A questa base imponibile dell'IMU bisogna applicare l'aliquota. Ecco, nel caso dell'acconto che si versa entro il 18 di giugno, l'aliquota per l'abitazione principale è stata fissata per legge pari al 4 per 1000, cioè si prescinde da quelle che sono state o saranno le decisioni comunali in materia di aliquota, e per il solo versamento della prima rata del 2012 si assume questa misura fissa del 4 per 1000. L'importo così ottenuto a sua volta poi ovviamente andrà diviso per due, perché io devo calcolare questa cifra con riferimento al primo semestre di possesso, cioè il semestre che va da gennaio a giugno del 2012, ed è quello che mi si chiede di versare adesso. Dopodiché è la detrazione dei 200 euro, infatti, questa come va calcolata? Ecco, stavo appunto finendo, dopodiché ottenuta l'imposta, che si ottiene appunto con la moltiplicazione del 4 per 1000 rispetto a questo valore imponibile, dall'imposta lorda occorre detrarre la detrazione di base. Anche questa è assunta in misura fissa pari a 200 euro, in realtà non sono 200 euro, perché se ho già l'imposta che è riferita solo al primo semestre di possesso, anche i 200 euro devono essere divisi per due, quindi saranno i 100 euro per il primo semestre. Quindi non è che se io ipoteticamente dovessi pagare entro il 18 giugno una prima rata di IMU di 200 euro, non è che vado a detrazione attraverso la detrazione ad annullamento totale della prima rata, no? Faccio meno 100. Esatto, perché tutto deve essere parametrato al periodo di possesso che si è verificato nel primo semestre. Se assumo che la mia casa di abitazione principale ce l'ho da tempo, per cui ho tutto il semestre gennaio-giugno 2012 di possesso, allora posso fare un discorso semplice: conteggio l'imposta per tutto l'anno, la divido per due e dall'importo così ottenuto deduco i 100 euro, perché anche questi vanno divisi per due, di detrazione per abitazione principale. Ho diritto anche, lo ricordo, ai 50 euro aggiuntivi ai 200 euro per ogni figlio di età non superiore ha 26 anni che conviva e risieda anagraficamente nell'abitazione principale. Allora, guardi, a questo proposito era già pronta una domanda di un ascoltatore di Taranto, che è Giampiero, che ha dei figli per i quali potrebbe far valere questa ulteriore detrazione, ma se non ho capito male, Giampiero, questi figli sono degli studenti universitari e vivono fuori casa, non vivono con lei, per cui bisogna capire se si può applicare anche grazie a loro questa detrazione aggiuntiva. Buongiorno. Pronto, buongiorno, mi sente? Sì, la sentiamo, Giampiero. Ah, buongiorno, buongiorno a voi e grazie per la disponibilità. Dunque, la domanda era appunto riferita alle detrazioni per i figli a carico. Io ho due figlie, come diceva la conduttrice, universitarie, sono entrambi inferiori ai 26 anni e entrambi a carico. Una studia nella città mia di residenza, quindi Taranto, l'altra invece studia a Chieti. La mia domanda era, posso avere le 50 euro per quella di Taranto? Sicuramente sì, anche per quella che sta a Chieti, considerando che quella che sta a Chieti, io per questa qui percepisco, mi metto in detrazione la quota parte dell'affitto, perché l'affitto regolare da un po' di anni può essere detratto dai suoi redditi. Però c'è anche a dire un altro fatto: questa ragazza è vero che sta a Chieti, però lei stabilmente ogni settimana rientra a Taranto, quindi di fatto sta 5 giorni lì e 2-3 giorni anche a Taranto, quindi di fatto ce l'ho quasi sempre presente sul posto. Non so se la domanda. È chiarissima, Giampiero, come no, la ringrazio molto. Luigi Lovecchio. Sì, allora premetto innanzitutto che la detrazione, la maggiorazione della detrazione di 50 euro non richiede che i figli siano a carico, è sufficiente che i figli siano conviventi, dimorino abitualmente nell'immobile, abbiano la residenza anagrafica nell'immobile, oltre ovviamente al requisito di età non superiore a 26 anni. Quindi il fatto che il figlio sia a carico o non sia a carico non incide sulla spettanza della maggiorazione della detrazione. E quanto poi al discorso della dimora, qui se prendiamo letteralmente quello che si prevede, norma, teoricamente si richiede che il figlio, oltre che essere residente anagraficamente nell'abitazione principale, vi deve anche dimorare abitualmente. Dimorare abitualmente significa che normalmente vive per la maggior parte del suo tempo presso la casa di residenza anagrafica. Se ha stipulato un contratto d'affitto altrove, è difficile dimostrare questa circostanza. È chiaramente più difficile, proprio l'esistenza del contratto di affitto è, che peraltro risulta anche ufficialmente nelle dichiarazioni, poiché da quello che ho capito la quota del canone viene detratta dal genitore, proprio l'esistenza del contratto di affitto potrebbe insomma in qualche modo costituire un ostacolo al riconoscimento della dimora abituale della figlia che studia. Quindi lei parla al condizionale, però, Lovecchio, per cui che cosa suggerirebbe in ogni caso di fare un tentativo a Piero di fare questa richiesta, Giampiero, o no? No, parlo a condizionale perché quando si parla di dimora abituale si parla di valutazioni di fatto che si fa fatica a scolpire nella pietra, cioè qui non si sta dicendo c'è la residenza anagrafica o non c'è la residenza anagrafica. Per rispondere a una domanda di questo genere la risposta è sicuramente secca, netta. Se invece la domanda è c'è dimora abituale o non c'è dimora abituale, siccome stiamo parlando di un apprezzamento di un elemento di puro fatto, è evidente che non posso dare delle risposte trancianti. Certo. Nel momento in cui la dimora abituale è presente, è ravvisabile, pur essendoci un contratto di locazione da altre parti, è evidente che questo potrà essere dedotto a favore del contribuente. Ufficialmente la figlia risulta residente anagraficamente a Taranto. Il profilo della dimora abituale è un profilo che va valutato caso per caso e certamente l'esistenza del contratto di affitto può essere di ostacolo. Certamente. Dopodiché bisogna tenere presente. Mi sembra un ragionamento di assoluto buonsenso, certo. Questa maggiorazione di detrazione non è che si chiede, il contribuente la applica, oppure se il contribuente ha dei dubbi, il contribuente può pagare senza considerare la maggiorazione della detrazione e poi presentare un'istanza di rimborso al comune. Va bene, allora, consolato dalla provincia di Teramo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie per avere un po' di spazio anche per me. Le volevo chiedere, siccome io ho anche un po' di problema sul fatto dell'IMU, perché ho comprato casa 5 anni fa, a parte tutto poi la mia azienda mi ha anche obbligato ad essere registrato in Slovacchia, cioè io ho un reddito bassissimo, perché o lavoravo così oppure me ne potevo andare a casa. Purtroppo per poter lavorare e portare a mangiare i miei figli ho dovuto fare questo passo qua. Io adesso ho il reddito che prendo intorno ai 3.900 euro l'anno. Sì. In più ho 2 figli a carico, più una moglie che sono a carico mio. Cioè, io per il momento convivo, però ho un figlio mio e un figlio di mia moglie, che li mantengo sempre io. Vorrei sapere più o meno come si potrebbe andare a queste situazioni per il pagamento dell'IMU. Allora, che cosa ci sono di guadagno, di disguadagno, più o meno come guardi, adesso a prescindere dal reddito, peraltro Luigi Lovecchio, torno da lei, a parte diciamo questa condizione di rapporto di lavoro abbastanza particolare che questo nostro amico che ci chiama da Teramo ha, il tema è intanto calcolare l'IMU sulla base delle caratteristiche dell'abitazione, dopodiché appunto il suo reddito può in qualche maniera avere un'influenza anche sulla determinazione dell'aliquota finale che il nostro contribuente andrà a pagare? No, assolutamente no. L'IMU non ha niente a che fare con le imposte sui redditi, non incide, non cambia assolutamente a seconda del reddito posseduto, per cui si calcola esclusivamente sulla base della rendita catastale secondo il procedimento che ho detto prima. Ecco, l'unica cosa appunto che il consolato può fare è avvalersi diciamo del beneficio che può arrivare dal fatto che abbia figli o meno, in quelle condizioni anagrafiche che dicevamo prima, l'età e poi la dimora appunto fissa in questa casa. Eccoci ritrovati insieme, allora magari adesso un'altra domanda la giro al presidente della Consulta dei CAF, un'altra domanda dei nostri ascoltatori. Chi abbiamo in attesa da un po'? Licia dalla provincia di Trieste, c'è anche Anna, ci sono 2 signore a cui voglio assolutamente dare la precedenza rispetto agli altri ascoltatori uomini in attesa. Licia, buongiorno. Buongiorno e tanti saluti a tutta Radio 24. Grazie. La risposta praticamente la so già, perché io vivo con un reddito sociale di 290 euro e 150 di divorzile, ma ho sentito che l'IMU non c'entra con il reddito, perciò la risposta l'ho già sentita. Quindi era questo quello che ci voleva chiedere, forse, Licia, se c'era un limite minimo al di sotto, sì, almeno del... quelli che vivono con poco, delle clausole di salvaguardia, di esclusione. Licia, presidente Canepari, la risposta l'ha già data dottor Lovecchio rispetto a questo. Qui si può aprire una riflessione che noi come CAF ci stiamo impegnando ad attivare. Noi vogliamo monitorare la gestione dell'IMU, perché ne dovremo gestire tante, sia dal punto di vista tecnico, le problematiche applicative, le situazioni particolari, sia dal punto di vista sociale, il caso che hanno evidenziato queste 2 persone, perché l'IMU è un'imposta che ha caratteristiche tutte sue ed evidenzia ancor di più rispetto al fisco una situazione sociale di bisogno, di difficoltà che ogni cittadino ha. Ecco, allora noi vogliamo proprio evidenziare queste cose, raccogliere tutto questo per presentarle poi come riflessione al governo. Perché ci saranno sicuramente molte persone in una condizione di pensione assolutamente minima, la cui unica ricchezza è il fatto di avere un'abitazione di proprietà, chiaramente andandola a tassare con questo ritorno dell'ICI, è chiaro che pesa non poco sul bilancio, per esempio, della persona che abbiamo appena ascoltato, così come di consolato in precedenza. Pesano moltissimo. Da questo punto di vista i comuni avevano con l'ICI e potrebbero avere anche con l'IMU la possibilità di intervenire su questi casi. Cioè, ci sono delle situazioni che possono essere portate all'attenzione delle amministrazioni locali perché emanino regolamenti applicativi dell'IMU che tengono conto di alcune fattispecie. È chiaro che interventi che vanno a modulare diversamente l'IMU possono avere effetti sul bilancio dei comuni e dello Stato. Ecco perché noi vorremmo definire dopo l'estate, dopo la verifica di applicazione dell'IMU, delle linee guida lungo le quali il governo dia indicazioni a se stesso e ai comuni su come gestire questa nuova tassa, visto che si è preso tempo fino al 10 di dicembre, mi sembra un po' avanti per deliberare sulle nuove aliquote. Infatti, allora, tra l'altro, un'altra cosa che volevo sollevare adesso, perché noi stiamo affrontando le questioni relative ai contribuenti che dovranno gestire questa imposta applicata alla prima casa, è anche vero, lo ricordiamo magari molto rapidamente, Luigi Lovecchio, quello che invece succederà a quegli agricoltori che per la prima volta dopo tanti anni pagheranno un'imposta sugli edifici rurali adibiti al ricovero degli attrezzi, dei macchinari, degli animali, allo stoccaggio dei prodotti cosiddetti fabbricati strumentali, perché anche per loro si prevede insomma una bella mazzata, mi verrebbe da dire. Sì, esatto, anche se questa mazzata è stata, devo dire, sensibilmente o comunque in parte, ecco, mitigata con l'emendamento alla legge di conversione del DL sulle semplificazioni fiscali che adesso è in discussione in Parlamento, perché se questo emendamento dovesse diventare legge, come insomma tutto parrebbe lasciare intendere, lasciar prevedere, allora bisogna ricordare, primo, che tutti i fabbricati rurali ad uso strumentale che sono ubicati in comuni classificati come montani o parzialmente montani in base all'elenco dell'Istat sono esenti da IMU e quindi questi fabbricati non pagheranno alcun importo a titolo di imposta municipale. Segnalo un pezzo su Norme Tributi del Sole 24 Ore proprio di questa mattina. Niente IMU in montagna, è un pezzo di Giampaolo Tosoni, così almeno lo segnaliamo agli ascoltatori interessati. Esatto, e poi aggiungo che quelli che invece i fabbricati rurali strumentali che devono invece comunque pagarla, sempre in virtù di questo emendamento potranno versare la prima rata calcolando il 30% dell'imposta dovuta, sempre applicando l'aliquota di base, invece che il 50%, cioè mentre la generalità dei contribuenti al 18 di giugno devono pagare la metà dell'imposta, i soli proprietari di fabbricati rurali strumentali invece potranno avvalersi della possibilità di pagare il 30% il 18 giugno e ovviamente la differenza sarà versata in sede di saldo. Guardi, a proposito di questa precisazione che ha fatto Lovecchio, le faccio una domanda, magari evito di far intervenire Salvo da Palermo e la anticipo io perché era una questione che volevo porre prima del termine della trasmissione. Quando c'era l'ICI, io se non ricordo male, si poteva versare tutto l'importo nella prima rata di giugno e diciamo il fatto di suddividerla in due versamenti, giugno e dicembre, era una facoltà del contribuente. Quest'anno non credo che sarà possibile fare tutto l'unico versamento in giugno, a meno che non si abiti in un comune che ha già deliberato definitivamente l'aliquota in netto anticipo rispetto ai tempi fissati dal governo. Sì, è così, esattamente così, nel senso che la norma istitutiva dell'IMU prevede la facoltà di pagare tutto in un'unica soluzione entro giugno, però per pagare tutto in un'unica soluzione entro giugno devo essere sicuro di conoscere la deliberazione comunale per il 2012, cosa che mi pare insomma piuttosto difficile che possa accadere. E infatti, Anna da Napoli, rapidissima, in 10 secondi, la ringrazio. Purtroppo io ho lo stesso problema della signora precedente, però ancora peggio, io vivo in città, ho una casa di proprietà nella quale vivo, ma ho perso il lavoro da 2 anni e quindi sopravvivo. Ora non ho reddito, ma giustamente diceva il signore, non è l'IMU, non è legata al reddito, però c'è non so, qualche cosa per non pagarla o comunque di avere uno sconto, non lo Anna, so. La ringrazio e le faccio tanti auguri, naturalmente cane pari, mi pare che dopo quello che avete sollevato la scorsa settimana c'è un altro polverone molto più importante, ma lei ce l'ha già anticipato che intendete sollevare l'attenzione del governo sui temi delle persone in forte disagio economico che adesso questa scadenza non riuscirebbero a rispettarla. Sì, noi vogliamo proprio concentrarci adesso sulle caratteristiche di questa nuova imposta e ne vedremo molte di situazioni, dicevo, tecniche, applicative, ma ci interessano il giusto, ma soprattutto quelle sociali, quelle che sono già venute fuori in una trasmissione come la vostra, già 2 o 3 casi sono emersi. Se questo lo estendiamo a tutta Italia, la casistica aumenta anche a fronte della situazione di disagio economico e sociale che c'è. Quindi credo che questa esigenza che noi avvertiamo sia un'esigenza diffusa di cui ci vogliamo far carico. Quindi monitoreremo le casistiche sociali per presentare una serie di osservazioni prima che questa legge diventi stratificata a seguito della ulteriore decisione del governo di andarla a modificare. Intanto magari, Anna, consigliamo di andare a fare una chiacchierata in comune, non so con quale tipo, sì, di assessorato, appunto, ai servizi sociali, certo, ai servizi sociali che hanno provvidenze che possono mettere a disposizione per casi come questo. Allora, noi ci fermiamo, sull'ICI ci ritorneremo solamente all'inizio di aprile, prima che arrivi appunto metà giugno, sicuramente ancora tante novità arriveranno e chiarimenti. Intanto noi siamo al consueto appuntamento con le pillole curate in collaborazione con l'INPS, pensate per spiegare il funzionamento dell'ultima riforma delle pensioni. Il tema di questa settimana sono le pensioni anticipate, sentiamo. Pensioni, le novità della riforma, in collaborazione con INPS. Che cos'è la nuova pensione anticipata introdotta dalla riforma a Monti Fornero? La riforma Monti Fornero ha cancellato le vecchie pensioni di anzianità, con le relative quote intese come somma di età anagrafica e contribuzione, e ha introdotto la cosiddetta pensione anticipata. Si tratta di una prestazione che è concessa a chi ha un'anzianità contributiva di almeno 42 anni e un mese se uomo, o 41 anni e un mese se donna. Non è prevista un'età anagrafica minima, ma per chi chiede la pensione anticipata prima dei 62 anni è stabilita una penalizzazione pari all'1% per ogni anno di anticipo entro un massimo di 2 anni e al 2% per ogni anno ulteriore rispetto ai primi 2. I requisiti contributivi sono aumentati di un ulteriore mese per il 2013 e per il 2014 e sono soggetti anch'essi all'adeguamento alle speranze di vita. Anche per oggi abbiamo terminato. Io ringrazio Luigi Lovecchio e Valeriano Canepari per essere stati con noi, Marco Lombardo per la collaborazione in redazione e Roberto Scaltritti in assistenza tecnica. Da Deborah Rosciani, buona giornata. A domani.